Questo è un audiolibro realizzato per il progetto LibriVox. Libera i libri con la tua voce. Questo audiolibro è rilasciato sotto la licenza Creative Commons, attribuzione non commerciale, condividi allo stesso modo. Audiolibro registrato da Marzia, marzia@cumaves.it. Che cosa è la mafia? Di Gaetano Mosca. Capitolo quinto. Ma la conseguenza più brutta dello spirito di mafia sta nel fatto che merce di esso acquistano una vitalità straordinaria un gran numero di piccole associazioni di malfattori, il cui insieme costituisce quell'altra specialità siciliana alla quale ho accennato in principio della conferenza e che i siciliani indicano collettivamente pure col nome assai largo e comprensivo di mafia. Però nel ricchissimo dialetto dell'isola non manca un'espressione speciale per denominare le dette associazioni. Ciascuna di esse chiamasi infatti una cosca di mafia, oppure senz'altro una cosca. E quando si dice che un tale è della cosca, ciò significa che fa parte di uno di questi poco onorevoli sodalizi. E qui mi sia permesso di rivelare che una pallida immagine del fenomeno siciliano ritrovasi anche in altre regioni d'Italia. Lo stesso vocabolo cosca, per indicare un'associazione di gente dedita alla malavita e al malaffare, con una leggerissima variante, non è ignoto all'Alta Italia. A Torino, infatti, alle volte i Barabba si sono organizzati in gruppi o società che si sono chiamate coche. E c'è stata la coca di Porta Palazzo, la coca di Vanchiglia, come purtroppo in Sicilia c'è ancora la cosca di Altavilla e quella di Villa Abate. Ma la cosca mafiosa ha una saldezza di compagine, una forza d'azione e soprattutto una vitalità infinitivamente superiori a quella della coca barabesca. Questa vitalità maggiore, lo stesso continuo nascere e rinascere delle cosche, è dovuto anzitutto, come ho già testé accennato, allo spirito di mafia, vero brodo di cultura nel quale tutti i vibrioni malefici, tutti i sodalizi di delinquenti possono vivere e prosperare. Difatti, dov'è molto sparsa l'opinione che il denunciare gli autori di certi reati alla giustizia sia cosa da uomo debole da poco, è naturale che i rei professionali, la feccia dei baffisifondi sociali, si associno per profittare della soggezione e del terrore che una minoranza organizzata, che sa agire con calcolo d'insieme, ispira all'individuo della maggioranza disorganizzata, i quali non osano invocare la protezione della forza legale. E per apprezzare bene l'efficacia del sentimento mafioso, bisogna tener presente che non è solo la paura propriamente detta, il timore di un danno materiale, ciò che rende reticenti, danneggiati e di testi, e impedisce loro di accusare apertamente i membri di una cosca quando essi commettono qualche reato. Ma alla paura si aggiunge l'omertà, la ripugnanza di mostrarsi apertamente più debole dell'offensore, ricorrendo alla giustizia per ottenere soddisfazione dell'offesa ricevuta. Se non altro, questa specie di paura morale serve molto bene a larvare ed a giustificare la paura materiale agli occhi stessi dell'individuo che ne è affetto e dei suoi amici. Ed accade anche, pure qualche volta, che la paura fisica serva a scusare quella morale davanti alle persone dell'Alta Italia, per le quali lo spirito di mafia riesce cosa incomprensibile e del tutto ingiustificabile. Né ciò è tutto, vi è un altro elemento psicologico che contribuisce alla reticenza di molti testimoni, elemento di origine meno bassa ma che non è il meno efficace. Il siciliano, che si possa credere in contrario, è largamente provvisto di senso morale, se non che ha un senso morale che differisce alquanto da quello degli italiani del nord. La sua moralità, ad esempio, si esplica preferenza nei rapporti coi privati anziché nell'adempiere scrupolosamente ai doveri pubblici del cittadino. Perciò, nell'isola, anche un galantuomo, indipendentemente da ogni spirito di mafia, posto nel bivio di negare la verità avanti alla giustizia o di mettere in imbarazzo un amico o un conoscente che gli ha rivelato un fatto grave fidandone alla sua discrezione e dimostrarsi quindi verso di questi leggero e fedifrago, quasi sempre risolverà il quesito morale a danno della giustizia. Tornando alla cosca mafiosa, essa è un organismo semplicissimo ma saldo e che non ha niente di fisso e di burocratico. Non ci sono né presidenti, né segretari eletti in una forma qualsiasi, né ruoli dei soci. Il sodalizio è diretto e sfruttato quasi sempre da 3, 4, 5 persone più autorevoli per l'età, l'intelligenza, la posizione sociale, le prove fatte, le condanne riportate e soprattutto per l'esperienza e la perizia maggiore nell'arte difficile di delinquere impunemente. Se uno di questi membri eccelle sugli altri per il complesso di tutte queste qualità, diventa di fatto il capo supremo. La condizione sociale dei membri influenti delle cosche è alquanto superiore a quella della parte più povera della popolazione siciliana, ma raramente accade che arrivi a livello della classe media. Essi sono quasi sempre piccoli proprietari o piccole fluttuarie di fondi rustici, ossia castaldi, sensali o piccoli commercianti di agrumi, di bestiame e di altri prodotti agricoli. Sotto la guida di costoro agisce un certo numero di giovanotti, che quasi mai oltrepassano la dozzina, di cui alcuni arditi, svelti, di carattere ambizioso, si mettono nella via del delitto con la speranza di far carriera, spinti da un'ammirazione non scevra di invidia verso gli anziani della delinquenza, che vedono circondati da un prestigio ed arrivati ad una posizione sociale che non avrebbero con le vie oneste probabilmente conseguito. Mentre altri sono invece dei poveri di spirito, mezzo scemi, che non hanno alcun avvenire delittuoso e che il bisogno, l'educazione mafiosa, la paura fanno diventare strumenti ciechi nelle mani dei capi. E sono forse gli strumenti più temibili, perché difficilmente sopra di essi si ferma il sospetto delle vittime e delle autorità. Mentre, sottoposti ad una specie di ipnotizzazione paurosa da parte dei delinquenti provetti, diventano capaci di gravissimi reati. Non sono rari, infatti, gli esempi di microcefali, che tutti burlavano, diventati sicari terribili capaci di uccidere successivamente all'agguato parecchie persone con una fucilata alla schiena e di ucciderle senza alcun compenso per la sola forza delle ingiunzioni minacciose corroborate da qualche solenne schiaffo che venivano loro fatte da uomini in fama di sanguinari. E la paura è così forte e radicata nei sicari di questo genere che, anche nel carcere, assai raramente accade che rivelino i nomi degli autori morali dei reati da essi commessi. Solo quando, come avvenne nel caso del povero Notar Bartolo, il delitto da commettere ha una specialissima importanza e presenta particolari difficoltà, le quali richiedono per la sua esecuzione abilità e sangue freddo eccezionali, e si vuole inoltre coprirlo di un mistero assoluto, tacendone perfino coi membri più giovani della cosca, solo allora un mafioso provetto consente a farsene esecutore materiale. Melli, in questo caso, a cura di procacciarsi prima un alibi e altri mezzi adatti a sviare la giustizia o da porsi almeno in salvo, né si mette in ballo se non ha complicità e quindi protezione altolocate. Le cosche mafiose sono disseminate per i comuni rurali dell'isola e per le borgate attorno a Palermo, ed ogni comune o borgata ne contiene una, al massimo due. In questo caso sono frequenti le rivalità di mestiere, che danno occasione ad una serie di assassini reciproci, mercé fucilate tirate per lo più alle spalle e da tradimento. Ma ordinariamente ogni cosca ha il suo territorio da sfruttare e non invade quello delle cosche vicine, con le quali vive in buoni termini fondati sopra un reciproco rispetto. In qualche rara occasione due o più cosche vicine o lontane si uniscono per commettere un reato. Questa cooperazione di due cosche è per necessità molto frequente quando il reato commesso è l'abigeato o furto di bestiame. Scarsissimi sono poi gli esempi di cosche diffuse per parecchi comuni dell'isola e che hanno raggiunto il numero di 80 o 100 e più affiliati. Credo anzi che dall'Unità d'Italia ad oggi si possano citare solo 4 o 5 sodalizi criminosi che hanno avuto in Sicilia uno sviluppo così straordinario e mostruoso. Occorre infine notare che in molti comuni dell'isola le cosche mafiose sono state sempre ignote, in molti altri hanno avuto vita breve e stentata e furono facilmente sradicate. Nelle province orientali, dove questi fortunati comuni abbondano e sono anzi in forte maggioranza, la delinquenza nelle sue forme violente è naturalmente molto più rara.